di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno, Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma Deborah Rosciani, come vi abbiamo detto ieri, non c'è. Le abbiamo dato qualche giorno, ma pochissimi giorni di vacanza, proprio in occasione delle festività, mentre io sono rimasto qui a presidiare quello che da mesi, possiamo dire, ci tormenta, cioè la manovra, il disegno di legge di bilancio, la finanziaria. Ecco, giustamente Peter Bescapè dall'altra parte del vetro, anche questa mattina in regia, mette questo effetto sonoro del minestrone, perché sobbolle ancora questa legge finanziaria. Di cosa vogliamo parlare? Abbiamo pensato di concentrarci sugli sconti, perché è quasi Natale e allora vediamo se il fisco ci fa qualche regalo con questo disegno di legge di bilancio. Vediamolo, perché probabilmente tutti voi avete sentito parlare, avete letto di uno sconto, un altro sconto, arriva la web tax, sarà al 6%, no sarà al 3%, dovremo pagarla tutti, arriva la fattura elettronica, no ma non ancora, insomma la abituale confusione che caratterizza queste settimane di discussione. Questa mattina vogliamo fare il punto, perché oramai ci siamo, insomma tra oggi al massimo domani il testo diventa definitivo, e allora vediamo se c'è veramente qualche sconto, qualche, possiamo dire, regalo, anche se nel caso del fisco è sempre un po' difficile parlare di regali. Vogliamo vedere se c'è però qualche cosa per noi, qualche, non questa volta imposta per te, ma invece qualche sconto per tutti quanti. Ne parleremo naturalmente con degli esperti. Da una parte avremo Giovanni Parente del Sole 24 Ore, che ha seguito ora per ora, verrebbe da dire, questa lunghissima elaborazione, e poi anche ci aiuterà Luca De Stefani, che già i nostri ascoltatori conoscono molto bene, commercialista ed esperto di questioni fiscali, specialmente per quanto riguarda queste modifiche che sempre arrivano per le cose magari più diffuse, come possono essere le detrazioni per chi fa i lavori in casa, le detrazioni per i condomini che attivano dei lavori, degli ammodernamenti, insomma sconti fiscali un po' di tutti i tipi. Li sentiremo tra poco. I numeri, se volete chiamarci, se volete mandarci dei messaggi, chiederci delle cose, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 se volete invece mandarci un SMS o un WhatsApp. Potete anche scriverci delle email. Molte indicazioni sul testo finale, sul testo conclusivo della legge finanziaria, e quindi poi sugli sconti di cui stiamo parlando, sugli aiuti, anche gli incentivi per l'occupazione e così via, li trovate oggi già a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, che trovate in edicola. Altri li affronteremo qui, e poi naturalmente, come sempre in questi casi, avremo una costante vigilanza nei giorni successivi qui a Radio 24, sul Sole 24 Ore, sui nostri siti www.sole24ore.com, www.radio24.it, per raccontarvi pezzo a pezzo i 1247 commi in cui si snoda questo lunghissimo serpentone di disposizioni, che davvero questa volta sono le più diverse. E allora vogliamo sentire già subito il dottor De Stefani, che mi pare sia già in collegamento. Buongiorno Luca De Stefani. Non abbiamo perduto il collegamento con Luca. Vi posso però già annunciare che con Luca parleremo degli sconti, delle modifiche agli sconti per i lavori in casa, che sono sempre un argomento di grande interesse e di grande successo. Oh, tra l'altro sarà molto difficile tenere un po' un filo coerente per tutto questo che andiamo a raccontarvi, perché vi posso già segnalare che più che una manovra di Natale, questa manovra somiglia un po' alla calza della Befana. Ci trovate davvero un po' di tutto, si parla di lavoro, si parla di e-commerce, si parla di fatture elettroniche, si parla di qualsiasi cosa, di equo compenso, che è una cosa che interessa molto i professionisti, ma anche di licenze degli ambulanti. E allora comincio a darvi due indicazioni. Ad esempio, il bonus bebè, che non è esattamente una misura fiscale, ma diciamo quasi fiscale, ci sarà questo assegno, come avete letto e confermato, che sarà dato questo assegno ai nati nel 2018. Però attenzione, l'idea iniziale, e probabilmente l'avete sentito dire, era di stabilizzarlo, renderlo permanente. non sarà così, la misura è invece circoscritta, limitata al solo 2018, importo annuo pari a 960 euro, ma non verrà erogato per i 3 anni. Questa è una delle tante misure che sono contenute. L'ape social, una misura di cui parleremo tra poco, parleremo di ape social perché oggi vanno in pagamento, partono proprio i mandati di pagamento da parte dell'INPS per i soggetti che sono agevolati in questo anticipo pensionistico, viene estesa come platea, cioè si ampliano coloro che possono chiederla dal 2018, è un'altra delle tante, tantissime misure contenute nella legge di bilancio. Allora, dovremmo aver ripristinato il collegamento con Luca De Stefani. Buongiorno, dottor De Stefani. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco. Senta, dottor De Stefani, naturalmente le misure per la casa non si fa tempo a nominarle, che già ci scrivono gli ascoltatori, grazie, grazie anche dell'affetto con cui ci seguite. Già subito ci arriva un messaggio via WhatsApp, 349-238-6666 è il numero, dice: ma è confermata sta misura del 65% per il risparmio energetico, cioè la detrazione, quindi lo sconto dall'IRPEF per chi fa lavori che hanno come finalità quello di migliorare l'efficienza energetica del suo immobile, è confermata sì o no? Ci chiede l'ascoltatore a bruciapelo. Sì, è confermata per tutto il 2018, dal 2019 poi probabilmente si passerà al 50%, però vedremo, il prossimo anno sarà un altro capitolo e probabilmente ci sarà un'altra proroga, perché ricordiamolo, dal 2007 c'è questa agevolazione che si differenzia molto rispetto a quella classica della ristrutturazione edilizia, perché va a vedere l'efficienza energetica degli edifici. E allora ricordiamoli, pannelli solari per la produzione dell'acqua calda, sostituzione di finestre, e in questo caso purtroppo abbiamo avuto la riduzione al 50%, ma poi dal prossimo anno, quindi dal prossimo anno non abbiamo più il 75%, ma abbiamo il 50% per la sostituzione delle finestre, che con finestre anche che hanno una trasmittanza termica, ma poi la riqualificazione generale dell'edificio. Tutto questo è stato approvato al 65% anche per il prossimo anno. Benissimo, abbiamo un'altra stretta per quanto riguarda le caldaie a condensazione, solamente determinate caldaie a condensazione particolari con efficienza energetica elevata hanno la proroga al 65% per il prossimo anno, mentre per le altre rimaniamo al 50%. Io do un'indicazione che invece non c'entra nulla, ma perché era una cosa molto attesa in un certo senso. Allora, avrete probabilmente sentito, letto che aumenta il limite di reddito per i familiari a carico. Attualmente questo limite di reddito è a 2.840,51 euro in un anno. Insomma, se il familiare a carico, il figlio, la moglie, un altro familiare che appunto è a carico del contribuente, guadagna più della sontuosa cifra di 236,71 euro al mese, che mi pare davvero uno stipendio, un introito principesco, ebbene allora viene considerato non più a carico, ma diventa un soggetto autonomo IRPEF, non può più essere quindi utilizzato dal contribuente per ottenere le detrazioni spettanti. O avrete probabilmente sentito che la legge di bilancio porta questa misura a 4.000 euro. È confermato? Sì, ma questo limite in realtà dei 4.000 euro sarà circoscritto solo al figlio, quindi ad esempio se si tratta del coniuge non è esteso, non viene modificato quel 2.840, 4.000 vale solo per il figlio e vale finché il figlio arriva al 24esimo anno di età. Quindi abbiamo questa divisione del familiare a carico, se è il figlio gli diamo un po' più di possibilità di guadagnare. Devo dire che con 4.000 euro, facendo una banalissima divisione, per 12 mesi fa 333,33 euro, il numero è pure periodico, come ci insegnavano le elementari, quindi direi che non siamo proprio arrivati anche qui a degli importi sontuosi. Chiamo in causa però il collega Giovanni Parente, che è a Roma e che ha seguito in questi mesi tutta l'elaborazione di questa manovra. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Mauro, buongiorno a voi. Perché volevo chiederti, allora, siamo confermato tutto lo svolgimento, il calendario, voto di fiducia, passaggio rapidissimo al Senato, e quindi tutto quello che stiamo dicendo è stabilizzato a questo punto. Sì, ormai sì, cioè, nel senso, chiaro che bisogna sempre avere un margine di incertezza, di probabilità, però obiettivamente col voto di fiducia della sera scorsa alla Camera, oggi ci sarà il voto definitivo, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori, alla Camera il voto di fiducia è disgiunto rispetto al voto sull'intero provvedimento, ci sono due voti nel corso di solito di due giornate diverse, a meno che non ci sia un accordo nella conferenza dei capigruppo. Poi ci sarà un passaggio ultra rapido al Senato, che di fatto non potrà che ratificare il testo che è uscito dalla Camera dei Deputati, cioè notevolmente modificato rispetto alla prima lettura e ai ritocchi che aveva già portato il Senato precedentemente, perché come dicevi tu, insomma, il carico di commi è moltiplicato proprio nel passaggio in commissione bilancio, anche perché di fatto era l'ultimo treno legislativo di questa legislatura che si prepara a essere chiusa con grande probabilità subito dopo la festività di Santo Stefano. E infatti la difficoltà di leggere questa nuova legge che appunto stiamo aspettando, per la quale stiamo aspettando la conferma definitiva, è proprio che di fatto sono confluite lì tutti gli atti che era in qualche modo urgente fare. Come gli ascoltatori sanno, sempre a fine anno si fa un provvedimento che si chiama mille proroghe, contiene tutta una serie di differimenti, di scadenze che altrimenti non si potrebbero rispettare, e queste proroghe ad esempio sono tutte confluite qui dentro, certo. Più altre misure ancora che erano da varare comunque, allora finché si è potuto si sono anche lì messe qua dentro. Insomma, il totale è il minestrone di cui parlavamo all'inizio, 1247 commi, lo racconteremo volta per volta, giorno per giorno, insomma, cercando anche di mettere a fuoco le cose interessanti. Ad esempio, un altro punto di cui probabilmente avete sentito molto parlare, la fattura elettronica. La fattura elettronica, sì, è previsto che si passi all'utilizzo massiccio della fattura elettronica nelle attività business to business, quindi non riguarda ancora contribuenti non soggetti IVA, insomma coloro che non svolgono attività economiche e commerciali, però questa decorrenza adesso verrà fissata dal 1 gennaio 2019. Giovanni, se qualche cosa non è aggiornato con le ultime modifiche alla Camera, interrompimi e correggimi immediatamente, naturalmente. E dal luglio 2018 però questa fattura verrà utilizzata per cessioni di benzina e gasolio, quindi ci sarà l'utilizzo della fattura elettronica per la parte che riguarda i carburanti. C'è già un ascoltatore, naturalmente non ho neanche bisogno di annunciarvelo, quello che suscita più interesse sono sempre i lavori in casa. Giovanni ci ha chiamato da Padova per porre una domanda. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Io sono residente nella casa di mia suocera. Sì. Le estrazioni che andrei a fare sono detraibili? Chiediamolo subito al dottor Luca De Stefani, che è in collegamento. Tra l'altro sì, certo. Siete vicini anche geograficamente, penso, no? Con Giovanni da Padova, dottor De Stefani. Certo, provincia di Padova anch'io, certamente, sì. Allora, non c'è nessun problema, perché i familiari conviventi, e per familiari si intende appunto anche questo rapporto di parentela del nostro ascoltatore, se la convivenza sia prima dell'inizio dei lavori edili, è possibile che il convivente del proprietario dell'appartamento possa sostenere la spesa, effettuare i bonifici parlanti, ricevere la fattura intestata a lui stesso e detrarre il 50% nel caso di ristrutturazione edilizia o il 65% per il risparmio energetico. Mi aggancio subito, dottor De Stefani, perché c'è sempre questo dubbio: ma se io in questi ultimissimi giorni dispongo qualcosa e pago, per dire, già un anticipo consistente, in qualche modo posso far valere già questo pagamento nella dichiarazione dei redditi prossima, o ormai devo aspettare il saldo e andare a quella futura? No, non c'è nessun problema, addirittura ancora prima della DIA, ancora prima dell'inizio dei lavori, è possibile effettuare dei bonifici di acconto, di pagamenti in acconto all'impresa che ad esempio farà i lavori, e con appunto DIA o SCIA presentata il prossimo anno, e già nella dichiarazione di redditi relativa al 2017 che verrà presentata il prossimo anno, potrò iniziare a detrarre un decimo delle spese che ho sostenuto quest'anno, perché vale il principio per cassa sì. in generale, per tutte le persone fisiche. Per poi cassa per lì... significa, dottor De Stefani, nel senso che potete utilizzare questo sconto una volta che avete materialmente pagato, ecco, per dirla sì. molto brutalmente. Esattamente. Ad esempio, mi aggancio su qualcosa che magari diremo dopo riguardo al bonus verde per i giardini. Sì. Se partirà il prossimo anno, dopo magari lo approfondiamo, però ecco, se faccio oggi il pagamento potrei anche essere agevolato, quindi perché ho il principio di cassa che vige. Però qui attendiamo i chiarimenti anche dell'Agenzia delle Entrate, perché comunque ricordiamo la legge di stabilità parte dal 1 gennaio del prossimo anno. Prudentemente quindi, però se io voglio avere, non so, dei lavori di un terrazzo, un giardino, un piccolo parco, insomma, da sistemare, converrebbe attendere il 2018 e farli valere come pagamento e farli poi valere ovviamente nella dichiarazione dei redditi che faremo nel 2019 anche qui. Sì, perché esatto, non posso rientrare nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e quindi sono delle agevolazioni che sono state introdotte dalla legge di stabilità e si avrà il 36% sui pagamenti effettuati il prossimo anno. Su questi lavori per i giardini, quindi per le giardiniere, che riguarda sia le abitazioni singole, sia il giardino per le abitazioni singole, ma anche i giardini delle parti comuni condominiali. Si ha un limite di 5.000 euro di spesa per il 36%, l'importo di detrazione si potrà detrarre in 10 anni nelle dichiarazioni di reddito. Sì, ecco, perché forse vale la pena anche di riepilogare, di ricordare a tutti gli ascoltatori, molti di questi sconti non sono, come dire, totali, integrali, hanno dei tetti massimi di spesa, quindi ad esempio, non so, per quello dei giardini mi pare che sia fissato al massimo di una spesa di 5.000 euro, è corretto Giovanni? Ecco, grazie. 5.000 euro, il che vuol dire che se un contribuente ne spende di più potrà far valere soltanto i 5.000 euro. Su questi 5.000 il fisco ci accorda uno sconto che è del 19%. No, 36%. Del 36%, ma ci si perde tutti qua dentro, dottor De Stefani, grazie della correzione tempestiva, che è del 36% di questa spesa come sconto dall'IRPEF. Quindi noi faremo il calcolo della nostra IRPEF, dell'imposta che dobbiamo, e poi in 10 anni lo dividiamo in decimi, questa parte qui ce la togliamo via via, questo sconto IRPEF che trasciniamo, che ci portiamo per 10 anni. C'è un altro ascoltatore che ci chiama da Milano, Alessio. Qui credo che andiamo invece nel settore IRI, l'imposta per le imprese piccole, che in realtà è rinviata, doveva partire dal 2018 ma non parte. Alessio, buongiorno. Buongiorno. Ci pronto? Dica. Pronto, sì, eccoci. Io ho una partita IVA in regime dei minimi e faccio anche un lavoro dipendente. La partita IVA in regime dei minimi è arrivata al quinto anno col 2017, quindi non la posso più utilizzare. Il mio commercialista mi ha detto che non posso utilizzare il nuovo regime a fiscalità agevolata perché ho già un reddito di lavoro dipendente superiore ai 30.000 euro. A me sembra un po' una cretinata, nel senso che se io ho una piccola attività, molto piccola, lo Stato dovrebbe semplificarmi la contabilità di quella cosa a prescindere del lavoro dipendente che ho, perché il lavoro dipendente non lo cumulo nella partita IVA e viene gestito a parte. Volevo sapere se ci sono novità. Guardi, innanzitutto possiamo ribadire che il fisco ha le sue ragioni che la ragione spesso non conosce, come avrebbe detto Pascal. Però giriamo la domanda a De Stefani. Credo che però per lei non ci siano grandi novità nel disegno di legge di bilancio. No, non ci sono novità, però diciamo che il collega ha ragione, in quanto tra i requisiti del regime forfettario, l'ascoltatore intendeva il regime forfettario, non quello semplificato, perché appunto abbiamo 4 regimi: i minimi, che ormai è terminato, sta terminando, è in esaurimento; il regime forfettario per i piccoli entro i 30.000 euro di solito, comunque ci sono vari livelli; poi c'è il regime semplificato che va per cassa da quest'anno, e il regime invece è quello ordinario. L'ascoltatore che era nel regime dei minimi, passato i 5 anni, deve per forza di cose passare agli altri 3 regimi. sarebbe il regime forfettario in automatico, però c'è una delle condizioni per il regime forfettario è che non si percepiscono redditi di lavoro dipendente superiori ai 30.000 euro. E quindi il nostro ascoltatore purtroppo non può applicare questo regime e deve per forza di cose applicare il regime semplificato che da quest'anno usa le regole per cassa, non per competenza, quindi si fa la differenza tra le entrate e le uscite. Ecco, tra l'altro, appunto, ribadiamo ad Alessio, non c'è non ci sono modifiche in manovra, casomai per i piccoli avevamo già ricordato, e qui forse Giovanni Parente ci può dare ulteriore conferma, si aspettava questo debutto dell'IRI, un'imposta appunto misurata che dovrebbe essere più confortevole per le piccole e medie imprese, ma questo debutto è stato rinviato, quindi se ne parlerà nel 2019, così Giovanni? Sempre se entrerà in vigore, permettimi questa. Ah, ecco, quindi non confidiamo troppo nell'avvio dell'IRI, questo è il senso. Ho come l'impressione che questo rinvio sia prodromico ad ulteriori rinvii da destinarsi, come era già avvenuto di fatto per un regime molto simile a metà degli anni 2000. No, il discorso è che c'è sicuramente l'IRI non parte quest'anno, con una beffa per chi si era già predisposto per poterla sfruttare, quindi magari era passato da contabilità semplificata a contabilità ordinaria, quindi sostenendo tutta una serie di costi di carattere anche di tenuta della contabilità e di adeguamento dei propri sistemi contabili. L'altro aspetto che mi preme sottolineare, avete parlato poc'anzi del regime per cassa, il regime per cassa ha un gigantesco punto interrogativo che è collegato alla gestione delle perdite, che più volte abbiamo sottolineato sulle pagine sulle 24 ore, si aspettava una risposta da questa legge di bilancio. In realtà la Commissione Finanza aveva fatto un passo avanti perché aveva di fatto predisposto un meccanismo, un emendamento che la bilancio avrebbe dovuto approvare per poter renderlo pienamente operativo, non se n'è fatto nulla, quindi il regime per cassa continua ad avere questa fortissima penalizzazione legata a chi ha delle rimanenze e quindi diventa anche in questo caso fortemente sconveniente. Quindi si fanno le norme, si cerca di agevolare le imprese e poi dopo ci perdiamo sempre qualche pezzo, i bastoni fra le ruote. Esatto. Allora ci fermiamo qualche istante perché adesso Valentina Furlanetto ci darà il consueto aggiornamento per i mercati, ma torniamo tra pochissimo, parleremo al nostro rientro anche dell'APE sociale con il direttore dell'INPS Luca Sabatini. Restate con noi, scriveteci anche se volete 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. E adesso i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai. Allora, qualcuno andrà in pensione in anticipo perché potrà sfruttare l'APE. Abbiamo detto già più volte, l'abbiamo ricordato più volte qui a Due di Denari, l'APE, l'anticipo pensionistico, in questo momento è attivo solo e soltanto nella sua versione cosiddetta social, cioè riguarda alcune categorie di lavoratori, anzi potremmo dire anche di ex lavoratori, perché in primo luogo si rivolge anche ai disoccupati di lungo periodo. Questi apisti, così abbiamo coniato anche un altro terribile neologismo, sono tra coloro che possono cominciare a ricevere l'anticipo pensionistico, mentre per le altre APE, quelle appunto relative a quelle volontarie che possono essere fatte da tutti noi se abbiamo i requisiti per farlo, per quello ancora attendiamo che siano ultimati gli accordi con ABI, con le banche e con le assicurazioni per poter così far partire almeno le domande all'INPS che poi le vaglierà. Ma proprio l'INPS sarà il protagonista già da oggi, perché abbiamo in collegamento il direttore centrale pensioni Luca Sabatini, che ringraziamo. Buongiorno direttore. Buongiorno, grazie a voi dell'opportunità. Allora, ci può confermare che oggi partono i pagamenti? Da oggi i primi apisti sociali, quindi quelli meritevoli di tutela, che non devono anticipare di tasca loro, ma per i quali invece interviene il sistema di welfare, riceveranno i primi assegni. È così, sì, c'è sì, questa sì, la prima conferma. Oggi quasi 10.000 lavoratori che avevano fatto domanda di APE ed era stato a loro certificato il diritto hanno nei loro conti bancari o presso le poste ricevuto il pagamento. È una prima tranche che sta assolutamente importante, che quasi esaurisce la platea del primo scrutinio dei precoci, dell'APE sociale. Iniziamo a gennaio le liquidazioni anche dei lavoratori precoci, sempre afferenti al primo scrutinio, e dobbiamo poi attivarci subito per il controllo delle certificazioni per chi ha fatto la domanda, poi per il secondo scrutinio, quello terminato il 30 novembre. Un'operazione molto complessa, ricordiamo la natura sperimentale della misura, che sicuramente ha portato come sempre nelle fasi di prima ingaggio, di primo lancio, dei problemi di natura interpretativa e di comunicazione, però si stanno risolvendo, e anche la legge bilancio 2018 contiene sicuramente importanti aggiustamenti rispetto alla misura 2017 dell'APE sociale precoci. Allora, in totale, direttore, sono state accolte 15.500 e poco più certificazioni, sì. Cioè le persone che hanno presentato la richiesta per l'APE sociale si sono visti accolti in 15.500, hanno potuto ottenere le certificazioni. E questi adesso si comincia a liquidarli in totale. Abbiamo liquidato 10.000 con pagamento al 22 dicembre, mm-hmm. Quindi cercando appunto uno sforzo straordinario delle strutture, perché siamo andati appunto a dover implementare per consentire con le procedure un pagamento prima della fine dell'anno, e ci siamo riusciti con questi primi lotto di 10.000 lavoratori che riceveranno. Poi volevo specificare, prego, che in realtà poi le domande della prestazione di APE sociale, nonostante le 15.500, ricordava lei, ottenute di certificazione, in realtà erano 12.624 qualche giorno fa, quindi un po' di meno. Questo anche perché è legato al fatto, come accennava nella premessa, che ancorché rivolta in particolare ai lavoratori disoccupati, però la misura si rivolge anche a lavoratori, per esempio, che possono essere ancora in servizio ma che stanno svolgendo lavori particolarmente gravosi o pericolosi, e quindi in questo caso probabilmente i lavoratori ancora non hanno deciso, diciamo, le dimissioni e quant'altro, e quindi c'è un numero che ancora di certificazioni non si è concretizzato in una richiesta della prestazione di APE sociale. Ecco, invece per l'APE volontario, come ultima cosa, naturalmente ci sarebbero molte domande, ma avremo modo di parlarne anche nel 2018, perché, come ha ricordato già lei, la stessa legge di bilancio di cui stiamo parlando stamane per quanto riguarda gli sconti fiscali contiene delle novità per l'APE sociale. Volevo chiederle una cosa sull'APE volontario: funzionerà il meccanismo allo stesso modo, cioè quando ci saranno gli accordi con le banche e le assicurazioni, con ABI e ANIA, poi l'INPS riceverà delle richieste iniziali che dovranno essere vagliate, perché non è detto che poi basti presentare la domanda per vedere accolta la propria richiesta di anticipo pensionistico. Esattamente. Queste misure funzionano con due momenti distinti: un momento di certificazione dei requisiti che il legislatore chiede ai cittadini per poter accedere, e poi un momento finale successivo dove, una volta acquisito la certificazione, si può chiedere la prestazione. L'APE volontaria ha questi due momenti anch'essa per come è stata disegnata. Adesso attendiamo questa conclusione, perché chiaramente ha una complessità maggiore, richiamando anche un intervento privato attraverso intervento di banche e assicurazioni, e quindi sicuramente è stato un iter lungo anche per questa complessità. E una volta che saranno pubblicato, l'INPS entro 15 giorni riuscirà sia a pubblicare la propria circolare sia a mettere in linea il simulatore, che appunto consentirà, nelle intenzioni che abbiamo, di poter in qualche maniera dare una prima informazione, una informazione comunque ponderata sulla possibilità di prestito, sì, su quale tipo di entità rispetto alla propria proiezione pensionistica il richiedente eventualmente potrà ottenere, e chiaramente le rate poi di ammortamento e la restituzione di questo prestito, restituzione, certo, del prestito. Perché l'APE volontaria è di fatto un prestito che appunto viene erogato. Quindi il tempo di firmare questi accordi, il direttore Sabatini ci assicura, in 15 giorni l'INPS, una volta siglati gli accordi, metterà a disposizione sia le istruzioni sia, esatto, questo simulatore sul sito sì, INPS, dove sì, potranno fare tutti coloro che sono nelle condizioni, quindi ai famosi 3 anni e tot mesi di distanza dalla 3 anni, esattamente, sì, con tutti quei requisiti possono fare il calcolo di vedere se hanno voglia, se gli conviene, se possono fare una prima richiesta. Grazie direttore, grazie, buon lavoro. A voi, grazie, grazie, buongiorno. Domani, domani ti faccio un regalo, ti rendo di nuovo la tua. E abbiamo ripescato con Marco Lombardo, ma questa mattina in realtà anche con Chiara Compagnoni, che ci assiste qui per Due di Denari. Abbiamo ripescato un pezzo non famosissimo, devo dire un brano non famosissimo degli anni 70, perché stiamo parlando di sconti, sconticini. Ecco, ci sembrava che questo verso, domani ti faccio un regalo, ti rendo, poi la canzone proseguiva in realtà dicendo di nuovo la tua libertà. Così cantava Laura Luca, se ricordo bene. Peter Bescapè mi guarda, lui, a parte che manco era nato, ma poi capisco che forse il brano non ha lasciato una traccia così indelebile. Allora, stiamo parlando degli sconti, ci sono moltissime domande da parte vostra. Abbiamo in collegamento sia Giovanni Parente da Roma che Luca De Stefani. Mario da Genova, in un minuto, lei riesce a farci la domanda? La risposta gliela diamo dopo le informazioni sulla viabilità. Buongiorno Mario. Temo di essere fuori tema, comunque provo. Una domanda relativa al sisma bonus. Sì, non è fuori tema. Benissimo. Allora, la domanda è questa: come si fa il bonifico? Ho chiesto a tante persone, ma non mi è chiaro. Cosa ci devo scrivere nel bonifico? Allora, sentiamo se Luca De Stefani ci può aiutare in 30 secondi. Sì, nel bonifico vanno inseriti gli stessi dati per la ristrutturazione edilizia, quindi articolo 16 bis del TUIR tranquillamente, e il codice fiscale del contribuente e il codice fiscale dell'impresa che ha fatto i lavori. Quindi non è differente da quello che dobbiamo scrivere per il bonifici delle altre detrazioni per i lavori in casa? No, perché fa sempre riferimento a quella norma lì, a quella legge lì. È un di cui. La norma è il decreto legislativo 63, però l'agenzia di entrate ha detto che se si mette l'articolo 63 va bene lo stesso, però sarebbe sempre meglio mettere la norma generale, che è l'articolo 16 bis del TUIR, che è il DPR 917 dell'86, certo. Comunque ricordiamoci sempre, quando usiamo per esempio i bonifici online, c'è proprio in moltissime banche, in moltissimi istituti di credito, c'è un percorso disegnato appositamente per questo tipo di pagamenti per ottenere lo sconto fiscale. E adesso, signore e signori, è il momento del traffico. Due di denari. I'm dreaming of a white Christmas. Comincia a sentirsi l'atmosfera natalizia, e in questa atmosfera natalizia noi questa mattina stiamo parlando di qualche così regalo, cadeau, sconto che il disegno di legge di bilancio, che sta per diventare finalmente legge, ci promette, ci assicura per il 2018. Ne stiamo parlando con Luca De Stefani, il dottor Luca De Stefani, e con il collega Giovanni Parente, che ha seguito proprio per settimane, per mesi, l'evoluzione di questa manovra, oramai diventata, come vi avevo ricordato in apertura di questa trasmissione, un mostro, un serpentone da 1247 commi, che poi vi assicuro già oggi, ma anche nei giorni a venire, spiegheremo passo passo sul Sole 24 Ore, con anche delle iniziative dedicate, quindi dedicate anche ai vari ambiti, per i contribuenti, persone fisiche, per le imprese, per tutto quello che può interessare questo provvedimento, che davvero davvero è molto composito. Dottore De Stefani, ovviamente la parte del leone negli SMS che ci continuano ad arrivare, nelle richieste di intervento in diretta, la fanno sempre le detrazioni per i lavori in casa. A questo proposito ci ha chiamato Vincenzo da Bari. Buongiorno Vincenzo, la sua domanda? Buongiorno. Senta, volevo sapere, io sono un rivenditore di porte. Sì. Sulle porte c'è detrazione fiscale, perché alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Guardi, lo chiediamo direttamente al dottor De Stefani. Dottore Stefani. Allora, sì, per le porte esterne sicuramente vi è la detrazione del 50%, però vi deve essere un materiale diverso rispetto a quello che viene della porta precedente, e quindi devono essere anti-intrusione, ad esempio, e devono avere un'innovazione, cioè devono rientrare nella manutenzione straordinaria. Il problema è sempre principale, sempre individuare la manutenzione straordinaria per le ristrutturazioni di abitazioni singole da quella, e distingua dalla ordinaria, perché l'ordinaria si può detrarre, le spese per la manutenzione ordinaria si possono detrarre solamente per le parti comuni condominiali. Per quanto riguarda le porte interne, ad esempio, vi sono dei grossi problemi, perché in questo caso qui deve esserci un materiale diverso, delle resistenze diverse, quindi deve essere un'innovazione, deve rientrare nella manutenzione straordinaria praticamente. Quindi in sostanza la semplice sostituzione di una porta interna non è agevolata dal fisco. Esattamente, esattamente. Poi per le finestre invece c'è la regola del 65%, c'era fino a quest'anno, hanno una tramittanza termica particolare. Purtroppo la legge di stabilità ha ridotto la detrazione per queste finestre comunque con una tramittanza termica particolare dal 65% al 50%, e questo a prescindere dal colore, ecco. Sì. L'importante è che abbia una tramittanza termica particolare. Però cioè devono essere finestre che consentono di migliorare il risparmio energetico della casa, l'efficienza energetica della casa. Corretto. In questo caso, se l'acquisto avviene entro il 31 dicembre prossimo 2017, abbiamo uno sconto del 65% da far valere. Corretto. Altrimenti, con la legge di bilancio che sta diventando legge proprio in queste ore, avremo sempre lo sconto se sono finestre che fanno risparmiare, ma si ridurrà al 50%. Dovremmo avere rifatto il punto sulle finestre. C'è Sauro da Ancona che invece vuole sapere per il bonus del giardinaggio. Buongiorno Sauro. Sì, buongiorno, grazie per la richiamata. Senta, io stavo sentendo dell'abbattimento fiscale per quanto riguarda i giardini e sì, verde. Volevo sapere se era possibile anche l'acquisto del taglia erba, il trattoretto che si usa per del tosa erba. Queste cose rientra nel possibile detrazione. Grazie. Temo di no, a meno che, Giovanni, non sono cambiate le condizioni di questo bonus giardini, che sopravvive dalla prima versione della legge di bilancio. Non mi sembra ci sono state modifiche su questo specifico punto. Mi sembra, magari Luca mi conforterà, che non possa essere ammissibile una spesa simile per quella che ci prospettava l'ascoltatore per la missione al bonus. Quindi insomma credo che siano più gli interventi legati proprio alla creazione o di spazi verdi, creazione di pozzi, giardini pensili, opere di irrigazione. Questo viene agevolata con la detrazione del 36%. Credo che dovrebbero esserci per espressa previsione anche le spese di progettazione. Naturalmente ci riserviamo poi di fare una verifica più approfondita, però insomma la spesa che ci segnalava l'ascoltatore non credo possa entrare nel novero dell'agevolazione. Luca De Stefani vuole aggiungere qualcosa, ma mi sì, pare che Giovanni sia stato molto chiaro. L'importante è che pagamento sia fatto il prossimo anno, anche per lavori fatti quest'anno, che terminano quest'anno o comunque che terminano il prossimo anno, ecco, consiglio, come si diceva prima, di attendere di fare il pagamento, perché se si fa dal primo gennaio del prossimo anno si ha la detrazione del 36%. Ok, allora con questo dovremmo avere chiarito anche questo bonus giardini. È molto popolare, e capisco anche nelle vostre richieste, perché davvero ne sentiamo parlare da settembre, e quindi adesso si tratta di capire come funzionerà. Giustamente il collega Giovanni Parente da Roma ci ha dato una prima indicazione, ma ammoniva anche, mi permetto di chiosare le sue parole, ammoniva anche ad attendere magari le istruzioni una volta che il disegno di legge di bilancio diventerà definitivo, le istruzioni che arriveranno dall'Agenzia delle Entrate, perché sempre c'è qualche dettaglio, qualche cosa che potremmo aver sottovalutato. Va bene, Giovanni, non abbiamo novità dalla Camera, quindi dovremmo essere sereni sull'approvazione della manovra. Sì, non ti ripeto, insomma, andiamo sereni, vediamo se già oggi si chiude tutta la partita anche al Senato, quindi insomma siamo addirittura d'arrivo ormai. E allora poi avremo molto da fare con qui a Radio 24, al Sole 24 Ore, per raccontarvi passo passo, come vi dicevo, nei prossimi giorni, da domani, ma anche durante la prossima settimana, dal numero che troverete il 27, mercoledì 27 di dicembre, e poi nei numeri successivi daremo dei dettagli sempre più approfonditi dei percorsi di lettura di questo testo, che davvero non è semplicissimo da avvicinare, nemmeno per gli esperti. Mi confermi, Giovanni, che è abbastanza arduo quest'anno? Sì, temo che troveremo qualche sorpresa leggendo poi quello che tra i vari commi scritti ovviamente in giuridichese, perché secondo me le maratone notturne fatte in commissione bilancio negli ultimi giorni potrebbero aver approvato diciamo misure di cui non abbiamo l'immediata percezione, che non abbiamo ancora visto con attenzione. Seguiteci qui a Radio 24. Grazie Giovanni, auguri di buon Natale da parte di noi di Due di Denari. Naturalmente ringrazio anche il dottor De Stefani per essere stato con noi. Auguri dottor De Stefani. E allora siamo praticamente all'ultimo minuto e alla rubrica del venerdì. Viva la Rai, fa crescere Stefani, viva la Rai. Perché c'è imposta per te. Viva la Rai. Perché c'è imposta per te con la Rai? Perché nella manovra, che di cui parliamo oramai da un'ora, c'è anche il canone Rai. C'è una buona notizia: anche per il prossimo anno è confermato, pagheremo 90 euro di canone Rai con le modalità abituali. C'è la proroga che è stata inserita. E allora, ci aveva scritto un ascoltatore, dice: ma scusi, io faccio il cuoco a domicilio, mi hanno chiesto di pagare il canone Rai, lo devo pagare? Ma no, ovviamente no. Però per dimostrarlo il consiglio è sempre: attenzione, entro il 31 dicembre, se non avete il televisore, andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ditelo via web o con una raccomandata. E con questo è davvero tutto prima di Natale per Due di Denari. Auguri a Marco Lombardo, auguri a Chiara Compagnoni, auguri a Deborah Rosciani che è già in vacanza, e naturalmente auguri anche a Peter Bescapè. Due di Denari torna rigorosamente in diretta mercoledì 27. Buon Natale a tutti!